31° canto dell'Inferno dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, 31° canto. Una medesma lingua pria mi morse, sì che mi tinse l'una e l'altra guancia, e poi la medicina mi riporse. Così od'io che solea far la lancia d'Achille e del suo padre esser cagione prima di trista e poi di buona mancia. Noi demmo il dosso al misero vallone, su per la ripa che il cinge d'intorno, attraversando senza alcun sermone. Qui v'era men che notte e men che giorno, sì che il viso m'andava innanzi poco, ma io sentii sonare un alto corno, tanto ch'avrebbe ogni tuon fatto fioco, che, contra sé la sua via seguitando, dirizzò gli occhi miei tutti ad un loco. Dopo la dolorosa rotta, quando Carlo Magno perdé la santa gesta, non sonò sì terribilmente orlando. Poco portai in là volta la testa, che me parve veder molte alte torri, ond'io, maestro, di che terra è questa? Ed egli a me, però che tu trascorri per le tenebre troppo da la lungi, avvien che poi nel marginare abborri. Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi, quanto il senso s'inganna di lontano, però alquanto più te stesso pungi. Poi caramente mi prese per mano e disse, pria che noi siam più avanti, a ciò che il fatto men ti paia strano, sappi che non son torri, ma giganti, e son nel pozzo intorno dalla ripa, dall'umbilico in giuso tutti quanti. Come quando la nebbia si dissipa, lo sguardo a poco raffigura ciò che cela il vapor che l'aere stipa, così forando l'aura grossa e scura, più e più appressando ver la sponda, fuggiemi errore e cresciemi paura. Però che, come su la cerchia tonda, Montereggion di torri si corona, così la proda che il pozzo circonda torreggiavan di mezza la persona gli orribili giganti, cui minaccia Giove del cielo ancora quando tuona. E io scorgeva già d'alcun la faccia, le spalle e il petto e del ventre gran parte, e per le coste giù ambo le braccia. Natura certo, quando lasciò l'arte di sì fatti animali, assai fe bene per torre tali esecutori a Marte. E s'ella d'elefanti e di balene non si pente, chi guarda sottilmente, più giusta e più discreta la ne tene. Che dove l'argomento della mente s'aggiugne al mal volere e alla possa, nessun riparo vi può far la gente. La faccia sua mi parea lunga e grossa come la pina di San Pietro a Roma, e a sua proporzione eran l'altre ossa. Sì che la ripa, ch'era perizoma dal mezzo in giù, ne mostrava ben tanto di sovra, che di giungere alla chioma tre frison s'averien dato mal vanto. Però chi ne vedea 30 gran palmi dal loco in giù, dov'omo affibbia il manto. Rafel mai a me che zavi almi, cominciò a gridar la fiera bocca, cui non si convenia più dolci salmi. E il duca mio ver lui, anima sciocca, tienti col corno, e con quel ti disfoga, quand'ira o altra passion ti tocca. Cercati al collo e troverai la soga che il tien legato, o anima confusa, e vedi lui che il gran petto ti doga. Poi disse a me, egli stessi s'accusa. Questi è nembrotto, per lo cui mal coto pur un linguaggio nel mondo non s'usa. Lascianlo stare e non parliamo a voto, che così è a lui ciascun linguaggio, come il suo ad altrui, ch'a nullo è noto. Facemmo adunque più lungo viaggio, volti a sinistra, e al trar d'un balestro trovammo l'altro assai più fero e maggio. A cigner lui qual che fosse il maestro, non so io dir, ma el tenea soccinto dinanzi l'altro e dietro il braccio destro, d'una catena che l tenea avvinto dal collo in giù, sì che n su lo scoperto si ravvolgea infino al giro quinto. Questo superbo volle essere esperto di sua potenza contra il sommo Giove, disse il mio duca, ond'egli ha cotal merto. Fialte a nome, e fece la gran prove quando i giganti fer paura ai dei, le braccia che l menò già mai non move. E io a lui, s'esser puote, io vorrei che dello smisurato briareo esperienza avesser gli occhi mei. Ond'ei rispuose: tu vedrai Anteo presso di qui che parla ed è disciolto, che ne porrà nel fondo d'ogni reo. Quel che tu vuo veder più là è molto ed è legato e fatto come questo, salvo che più feroce par nel volto. Non fu tremoto già tanto rubesto che scotesse una torre così forte, come fi alte a scuotersi fu presto. Allor temetti io più che mai la morte, e non v'era mestier più che la dotta, s'io non avessi viste le ritorte. Noi procedemmo più avante a lotta, e venimmo ad Anteo, che ben cinque alle, sanza la testa, uscia fuor della grotta. O tu che nella fortunata valle che fece Scipion di gloria reda, quando Annibal col suoi diede le spalle, recasti già mille leon per preda, e che se fossi stato all'alta guerra dei tuoi fratelli, ancor par che si creda ch'avrebber vinto i figli della terra. Mettine giù, e non ten vegna schifo, dove cocito la freddura serra. Non ci fare ire a Tizio né a Tifo. Questi può dar di quel che qui si brama, però ti china e non torcer lo grifo. Ancor ti può nel mondo render fama, ch'el vive, e lunga vita ancora aspetta, se nanzi tempo grazia a sé nol chiama. Così disse il maestro, e quelli in fretta le man distese, e prese il duca mio, ond'Ercule sentì già grande stretta. Virgilio, quando prendersi sentio, disse a me: fatti qua, sì ch'io ti prenda. Poi fece sì ch'un fascio era egli e io. Qual pare a riguardar la carisenda sotto il chinato, quando un nuvol vada sovressa sì che della incontro penda, tal parve Anteo a me che stava a bada di vederlo chinare, e fu tal ora ch'i avrei voluto ir per altra strada. Ma lievemente al fondo che divora Lucifero con Giuda ci sposò, né sì chinato li fece dimora, e come albero in nave si levò. Fine del 31° canto dell'Inferno.